Se ci accomodiamo, possiamo iniziare come al solito in ritardo, per colpa nostra ovviamente. Prendo un attimo, vediamo. È qua, guarda. Ma scusami. Ma io posso anche. Cioè. No, ero io. Sono io che sono un po' in mezzo. Allora, so che può sembrare da un po' persona strana, questo microfono non serve per l'amplificazione qua perché tanto ci sentirete benissimo, serve perché siamo in diretta radio e quindi c'è qualcuno, qualcuna, qualcun che ci ascolta dalla nostra fantastica web radio, Radio ZM. E serve a questo, a nient'altro. E volevo ricordarvi che oltre a questa interessantissima presentazione del libro, abbiamo un banchetto di cibo per chi volesse rifocillarsi. I soldi andranno a finanziare l'8 marzo con Non Una di Meno. C'è il banchetto con tutti i gadget di Non Una di Meno, quindi accorrete numerose. C'è anche il banchetto della nostra collettiva Degenerazione, quindi insomma ci sono tante cose. E niente, con questo io prima di lasciare la parola alle nostre esperte faccio partire un video che ci servirà a lanciare appunto il dibattito, e grazie a tutte, tutti, tutto per essere venuti e venute, venuto e ascoltarci dalla radio. Anzitutto chiariamo che non ci siamo messe d'accordo su una scaletta o su come affrontare la cosa, per cui sarà tutto abbastanza in freestyle. E vabbè, intanto seguo i ringraziamenti di Giulia, grazie a Sara Marchesi che è la traduttrice del libro, la prima volta che è stato tradotto in lingua italiana, questo era il nostro. E ringrazio anche Carlotta Cossutta che ha voluto presentarsi come ricercatrice precaria, ma è anche tanto altro, compagna anche del movimento di Non Una di Meno, della collettiva Ambrosia, per cui mi sembra giusto comunque dire tutto, e che ci accompagnerà e insieme a Sara guideranno un po' la presentazione di questo libro anche attraverso le nostre domande e stimoli e le vostre. Ringrazio anche la presenza di Martina Camparelli per la sua presenza, che è referente nazionale di Fridays for Future e che insieme poi a Sara, Carlotta, ma anche a tutti noi arricchirà il dibattito, che ovviamente tra le tante cose sarà focalizzato su quello che la stessa Françoise Dubon per la prima volta, sul tema che Françoise Dubon per la prima volta chiama ecofemminismo. Abbiamo deciso di partire da mostrarvi questo video, sembra una cosa autoreferenziale, ma giuro in questo caso non è così, e, però ci interessava partire un po' da questa azione appena fatta da Fridays for Future, non una di meno, che va a toccare sicuramente il tema del trasporto pubblico e quindi del rincaro dei mezzi di trasporto, del caro vita e un sacco di cose che non voglio dire, perché la prima domanda che voglio fare partendo da qui è: quanto di questa azione si può trovare rispetto a quello che dice Françoise Dumont? Quanto ha a che fare anche con quello che possiamo tenere, fare tesoro di quello che si dice in questo libro? E poi sicuramente ci saranno anche delle cose collegate che volevamo chiedervi in proposito, ma volevamo proprio partire da qui, dal presente, quindi un'azione di oggi che lega il tema del femminismo e transfemminismo con anche quello della sostenibilità ambientale, perché i mezzi di trasporto pubblici sono legati anche a questo, attuando un'autoriduzione. Quindi quanto questo collega al periodo in cui ha scritto Françoise Dumont a quello che però ha detto, che è anche molto attuale, e spero che la domanda sia chiara. Aiutatemi perché sono bloccata. Sì, ci rimbalziamo, perché visto che questa cosa non è preparata, insomma. No, dunque, la prima cosa che mi viene da dire, così in risposta alla tua domanda, Valentina, è che Françoise Dumont sarebbe molto contenta di vedere questo genere di azioni, perché la sua grande, diciamo, frustrazione da un certo punto di vista, ma anche poi lo stimolo che l'ha portata a teorizzare l'ecofemminismo, ma non solo a teorizzarlo, perché in realtà lei era una donna estremamente pratica, è stata forse meno una teorica, cioè, o comunque lei avrebbe voluto essere definita molto più una militante che una teorica, e quindi lei aveva un po', soffriva un po' questa cosa di essere dentro al movimento femminista e non vedere, non percepire nessuna attenzione per i temi ecologisti che stavano emergendo in quel periodo, e viceversa lei frequentava anche, e poi vengo a un secondo punto, lei frequentava anche diversi tipi, non frequentava soltanto i collettivi femministi, per esempio lei è stata tra i fondatori e le fondatrici del FAR, il Fronte Omosessuale di Azione Rivoluzionaria, lei da eterosessuale comunque, e soffriva che invece in questi collettivi, così come soprattutto in quelli ecologisti, ci fosse meno attenzione per il tema del sessismo verso le donne, e quindi come dire, il suo ecofemminismo è stato un po' una reazione a questo problema. Quindi lei ha fondato questo gruppo che si è staccato dal movimento di liberazione delle donne, che lei anche ha contribuito a fondare, che si chiamava Front Feminist, e poi è diventato Ecologie Feminist Center, e proprio nel tentativo di mettere insieme questi temi, cosa che in realtà non è successa in quel momento lì, quindi per lei forse è stata anche un po' una sconfitta da un certo punto di vista, perché lei questa cosa non l'ha vista accadere, per questo dico che sarebbe molto contenta di vederlo oggi. E dall'altra parte, appunto, lei, come dicevo, quando io ho deciso di tradurre questo libro, in realtà la scelta era portare Françoise Dumont in Italia, perché in Italia non c'era mai arrivata. Immagino che forse nessuno di voi l'abbia sentita nominare prima, a meno che non leggiate, insomma, il francese, ma anche in Francia è stata riscoperta negli ultimi anni. Quindi quando io ho pensato che fosse il caso, insomma, di portarla in Italia, perché faccio questo di lavoro, non perché sia una particolare esperta di ecofemminismo, mi sono anche chiesta quale fosse il libro giusto. No, perché lei ha scritto tantissimo, ha scritto, vabbè, in vita ha scritto più di 100 libri, però era anche romanziera, biografa, quindi insomma una produzione molto ampia, lei viveva di scrittura, però solo rimanendo nella saggistica teorica ha veramente affrontato tantissimi temi che ricorrevano nei titoli del vostro video e che ai tempi erano non erano ancora, anzi, sulla cresta dell'onda, cioè lo sarebbero diventati a breve, quindi appunto il movimento omosessuale, il movimento ecologista, il suo primo testo parlava di erotismo, di femminilità e sessualità, ispirata ovviamente a Simone de Beauvoir come temi, e quindi ha scritto una bellissima storia dell'omosessualità maschile, perché vedeva nell'omosessualità e come dire, la sfida più grande al patriarcato e quindi negli omosessuali e nelle omosessuali, ovviamente le prime alleate della lotta per le donne, delle donne, scusate. E quindi veramente è stato difficile scegliere il libro, dopodiché ho optato per Il femminismo o la morte, perché non solo in questo libro, come diceva giustamente Valentina, per la prima volta lei utilizza, formula il testo, è un neologismo che lei si inventa, quindi formula la parola e sviluppa l'idea dell'ecofemminismo, ma ci riporta veramente tutto il percorso mentale che lei ha fatto per arrivarci all'ecofemminismo, perché c'è anche un altro libro molto più incentrato, se vogliamo, sul tema, di qualche anno successivo. Questo libro è del 74 e se lo leggerete l'ecofemminismo compare praticamente nell'ultimo terzo del libro. Tutta la prima parte è il processo con cui lei è arrivata all'ecofemminismo, e questo processo mette insieme tantissimi di questi temi di cui si parlava. E quindi, insomma, la mia prima risposta è questa. Non so se... Sì, aggiungerei così una nota sempre biografica di colore, che oltre a fare tutte queste cose, Françoise Dobon metteva le bombe, che è alle centrali nucleari. Una, ma significativa, cioè comunque una è meglio di zero. Beh, adesso... era il 75, quindi no, non era anziano. No, non era anziano, anche perché sennò io ho un piede nella fossa. No, però comunque, appunto, per dire che al di là adesso dello scherzo sulle bombe, che credo che un altro dato che comunque va tenuto presente rispetto appunto alla suggestione del video, è anche una politica fatta di azione diretta, fatta di messa in gioco dei propri corpi, del proprio, no? Anche di una possibilità di rischio. Adesso quella della bomba è la più estrema, ma nel corso del tempo appunto il fronte omosessuale metteva in atto delle proteste. Le prime proteste del movimento femminista francese, per esempio, andavano anche ad agire contro il concetto di patria sotto i monumenti ai caduti. Cioè, c'era una modalità di pensare all'azione politica che secondo me non è indifferente rispetto a poi quello che lei scrive. E, insomma, tutte le cose che scrive poi, come giustamente diceva Sara, sono tantissime. E l'altra questione che mi veniva, poi appunto magari lo approfondiremo meglio in seguito, però come appunto diceva Sara, in realtà in questo testo di ecofemminismo si parla nelle ultime 100 pagine di tutto il resto, forse meno, perché quello che secondo me qui, e appunto lo diceva benissimo Sara prima di me, è interessante, è il percorso che porta una donna attiva nei movimenti femministi e sulla sessualità a non solo abbracciare l'ecofemminismo, ma proprio a inventarsi questa parola, a partire proprio dal titolo, no? Il femminismo o la morte, senza punto di domanda, cioè non è una domanda, è un dato di fatto, che riecheggia un po' quel socialismo barbarie di Rosa Luxemburg, che però così... appunto io faccio la ricercatrice una vita, ogni tanto mi appassiono di dettagli, che però era anche il titolo di una famosissima rivista dell'epoca francese su cui scrivevano per esempio Castodiaris, Lefort, cioè le persone che facevano parte di quel marxismo non ortodosso che c'era in Francia. E questo è un altro elemento, no, secondo me, della critica che nel corso del testo Dobon fa anche a una certa, no? Modo di intendere il marxismo e la sinistra, quindi che mi sembrano tutti temi estremamente attuali, no? Cioè femminismo, ecofemminismo e uno sguardo alla complessità del mondo che non solo vive la frustrazione, no? Di non avere né degli alleati nel movimento femminista né davvero degli alleati nel movimento ecologista, ma non avere degli alleati neanche in quel movimento più ampio marxista, rivoluzionario, socialista, poi possiamo di sinistra, metteteci tutti i nomi che vi vengono in mente, che in quel momento era attivo in Francia, ma che mi sembra un altro elemento che possiamo così mettere sul piatto della discussione anche dell'oggi, per cui secondo me appunto poi questo testo è, così dico delle cose intanto anche sul testo, è preceduto da due prefazioni, una di Sara e un'altra che è la prefazione alla riedizione, all'edizione francese, che poi riporta anche quanto questo testo in alcuni casi sia datato, dipendente da un contesto che non è più il nostro, con alcuni accenni problematici, diciamo così, in alcuni punti, però nello stesso tempo coglie dei nodi che appunto forse all'epoca erano un po' troppo, cioè, lei era un po' solitaria in questo coglierli e che oggi invece sono diventati più di massa, come un po' abbiamo, di massa adesso sto esagerando, ma più ampi come abbiamo visto nel video. Ma un po' mi avete preceduta perché la nostra domanda successiva sarebbe stata di che cosa facciamo tesoro da questo libro, che cosa invece è superato e che cosa invece è stato perso. In parte ad alcune cose avete già risposto, quindi vi lascio le altre. Sì. Ma allora, su quello che è superato in realtà si potrebbe parlare veramente a lungo, perché comunque Françoise Dobon aveva, non era sicuramente la militante perfetta, aveva diversi limiti dovuti sicuramente al suo posizionamento, cioè lei era una donna bianca, europea, che non è mai uscita se non anzianissima in questo caso, sì, per andare negli Stati Uniti, ma che non aveva mai visto il mondo nei fatti, e quindi e dall'altra parte però molto curiosa e davvero come dire in grado di avere uno sguardo anche globale, no? Però il suo limite è proprio quello di guardare all'altro con vestita di quello che è il suo diciamo orizzonte culturale, e quindi direi che veramente il suo limite maggiore che si riscontra subito leggendo il libro riguarda il tema diciamo del colonialismo o comunque del modo di valutare le realtà fuori dal mondo occidentale, perché lei anche conosce molto bene il mondo degli Stati Uniti, del Nord America, però quando parla per esempio dell'America Latina o del mondo musulmano, ecco lì obiettivamente lei vede una situazione immobile, vede delle donne che non fanno nulla per emanciparsi, vede il machismo sudamericano come assolutamente prevaricante in tutti i sensi, senza che ci sia nessun tipo di come dire forza da parte delle donne, cosa assolutamente falsa, noi adesso lo sappiamo, però c'è anche da dire che ai tempi si sapeva molto meno, e quindi sicuramente questo è il suo limite, che infatti le due prefatrici dell'edizione francese mettono molto bene in luce. Quindi questo sicuramente. Dall'altra parte però io questo lo dico sempre, lei aveva un carattere molto difficile, che è il motivo per cui non piaceva particolarmente, ecco, quindi era un po' una battitrice libera, non riusciva tanto a stare nei collettivi dopo un po', perché scendere a compromessi, il dialogo, ecco, non le riusciva benissimo, quindi ecco, aveva questo limite. Però quando una cosa la colpiva e la colpiva in senso intellettuale, allora era pronta a cambiare idea, era pronta a ricredersi. Quindi io dico sempre che sarei curiosa di sapere cosa direbbe oggi Françoise Dobon, per esempio, del fatto che Non una di meno sia nata, no, in America Latina, oppure di quello che si sa delle battaglie dei nativi, che sono spesso guidate dalle donne, battaglie ambientaliste soprattutto. Quindi non lo so, io mi sento di lasciare un po' questo punto di domanda da questo punto di vista. Sì, direi che questo è il limite, poi ce ne sono sicuramente altri. No, questo mi sembra il limite più grosso, anche aggiungerei ai paesi che citava Sara, anche sull'Africa dice delle cose estremamente problematiche. Però al di là di questo, che appunto senza voler sminuire, ecco, questa dimensione che è assolutamente centrale, che appunto la prefazione, secondo me, all'edizione francese mette in luce proprio in tutti i suoi aspetti. C'è da dire, per provare a fare invece come le parti che teniamo, oltre a quelle che abbiamo già detto, che due cose mi verrebbero, forse tre, però sicuramente due cose mi verrebbero in mente. La prima, lo diceva già Sara prima, la sua curiosità. Françoise Dobon è una che legge tantissimo. In questo testo trovate, adesso parlo delle citazioni dell'Italia perché sono quelle che forse più magari ci colpiscono, trovate citazioni a Carla Lonzi, trovate citazioni a Massimo Consoli che sono che non erano tradotti in francese all'epoca, Massimo Consoli credo neanche adesso, ma forse sto esagerando, e che però testimoniano di una capacità di tessere, al di là, no, dei problemi appunto che già Sara diceva rispetto al suo sguardo un po' coloniale in alcuni momenti, però la capacità di tessere dei legami transnazionali e di andare a scovare in altri posti qualcosa che stava succedendo e che aveva un suo interesse. Cita, per uscire dall'Italia, tantissime volte, no? Valérie Solanas, che è un'altra figura scomoda del femminismo, un'altra che, come dire, coi gesti violenti aveva un certo feeling, perché è molto famosa per essere quella che ha sparato giustamente a Andy Warhol. Purtroppo si è salvato, però al di là di questo, quindi questa sua capacità, questa curiosità di andare a cercare in altri posti delle cose che stanno succedendo e che ci possono in qualche modo interessare e dire delle cose. L'altra cosa che io salverei, così insomma in questo gioco butta dalla torre tieni su, è una sua capacità di leggere nell'ecofemminismo, diciamo così, anche una modalità per le donne di distaccarsi, di mettere in discussione, di superare dei ruoli di genere naturalizzati. Per cui, per esempio, poi magari ci torniamo meglio dopo, le mie parti preferite del libro, Sara lo sa perché già, sono quelle che lei dedica ai ratti e alla scelta delle ratte. Non so se si dice ratte, comunque delle femmine di ratto, non riprodursi nelle situazioni di sovrappopolazione delle colonie, no? Come un gesto che è necessario per il bene della specie. E appunto, no, vi leggo dei passaggi perché così sentiamo anche un po' forse la sua. Adesso io ho segnato troppi passaggi, quindi non ritroverò mai quello necessario. Ecco, dice: è interessante notare, a proposito del famoso stress del ratto bianco, che nel regno animale, come nel regno umano, è la femmina che tende a rifiutare la procreazione e non il maschio, mentre l'istinto di conservazione dovrebbe estendersi a tutta la specie. Se consideriamo il comportamento dei maschi al potere nella nostra società, che cosa ne deduciamo? Consapevoli del pericolo della sovrappopolazione, si sforzano di far credere che si tratta di un problema del terzo mondo e di concentrare i loro sforzi di limitazione nella parte più svantaggiata del pianeta, quella che consuma di meno. Ecco, in queste righe, poi lo approfondisce in più passaggi, no? Questa capacità di legare lo sguardo ecologista delle donne al rifiuto della procreazione e non ha una vicinanza alla vita dovuta alla capacità di dare la vita, è un gesto che Secondo me è ancora molto attuale, che permette di uscire da alcune delle strettoie in cui ogni tanto l'ecofemminismo finisce per incappare, che per dire perché le donne sono più coinvolte nei movimenti ecologisti, ogni tanto c'è un po' un ritorno di una naturalizzazione in cui le donne sono più coinvolte perché appunto hanno il potere di dare la vita, la terra dà la vita, tutti diamo la vita, grande madre terra, che bello, la gioia di vivere, e questo ovviamente, come dire, scusate adesso la sto un po' buttando in cacciara, ma per alcune sicuramente sarà così, però rischia di ingabbiare nuovamente i corpi delle donne in un aspetto naturale. E vi volevo leggere un altro passaggio, questo dovrei sapere dov'è, per cui ovviamente lei è anche molto debitrice a Simone de Beauvoir di tantissime cose anche rispetto a questo asservimento della donna alla specie, però la sua capacità di definire come ci scopriamo donne in una negazione, no? E di stare in questa negazione, e dice: arriva sempre per noi il giorno in cui ci conosciamo e ci scopriamo donna. Quindi non è che lo sappiamo già da prima, a un certo punto lo scopriamo. Non già per una condanna astratta e collettiva come quella della morte, ma a causa dello stratagemma di un effetto naturale. Questa sventura, e questo è in corsivo, facevo le virgolette per... Questa sventura individuale inevitabile che balena davanti ai nostri occhi increduli. Ci si interroga, si constata, sono io questa? Sono io davvero? Questa carne da stupro, questo oggetto che sembra essere questo zombie, questa negatività, questo buco, sono io? Non ci siamo nate, lo siamo diventate. Ognuna risponde nel proprio modo personale a questo male collettivo e in tal modo rende specifica e particolarizza la condanna che non può essere evitata, che non può che essere vissuta nel dramma o nella rassegnazione. Donna uomo o lesbica, pagana ad honorem, eteromasochista o ribelle, bellezza smemorata, evasiva o provocatoria, che risponda con la sfida, il rifiuto, la resa con armi e bagagli, è con un sussulto che ha cominciato la sua condizione. Il volto dell'oppressione è mutato, ma l'oppressione rimane la stessa. Ecco, quest'idea di un'oppressione che rimane la stessa nonostante tutte le trasformazioni mi sembra sia un'altra cosa che possiamo tenere della capacità di Françoise Dobon di guardare la condizione femminile come una condizione storicamente situata, e c'è cioè lei fa anche tutti dei passaggi storici interessanti, no? Sullo sviluppo della condizione femminile nella storia, quindi storicamente situata, e che però, e questo è l'altro elemento che secondo me ci interessa tenere, a cui non rispondiamo tutte nello stesso modo, no? E che quindi dà vita non a un ideale di donna uguale sempre e per sempre, ma dà vita a delle condizioni reattive differenti che vanno dalla bellezza smemorata alla donna uomo, no? Ma che nello stesso tempo sono il risultato di un'oppressione e una reazione creativa, e in questo iato, no, ci sta la possibilità di pensarsi diversamente. Ecco, queste mi sembrerebbero delle cose che terrei. Ne aggiungerei solo una, ma veramente velocissima, su questa scia, perché giustamente uno dei nodi principali da cui parte Dobon per arrivare al suo ecofemminismo, e quindi per dire guardate che il fatto che le donne prendano in mano il futuro non è una possibilità auspicabile, non è un desiderio per vivere meglio, è l'unica possibilità per sopravvivere, cioè non ce n'è un'altra, questa è. E sicuramente una è questo ragionare su cosa sia una donna, su come si costruisce l'oppressione della donna da parte dell'uomo, e perché poi questa la porta, poi se ci arriviamo magari a vedere un pochino meglio la teoria ecofemminista vera e propria, la porta appunto a questo tipo di oppressione. L'altro nodo che io le sono molto grata di aver inserito, perché raramente lo trovo così approfondito, è quello del lavoro. Lei dedica veramente un terzo di questo libro al cos'è essere una donna e cos'è questa oppressione, l'altro terzo è dedicato al lavoro. Perché al lavoro? Perché il lavoro è un altro di quegli ambiti in cui ci si scopre donna, e ci si scopre donna perché a un certo punto ci si rende conto che, lei utilizza questo termine, il compiacere è qualcosa che viene richiesto alle donne sul lavoro, che non viene richiesto a un uomo. cioè l'uomo al limite si può chiedere di obbedire al capo, eccetera, ma il compiacere, il fatto che alla pari in una posizione lavorativa, anche alla pari con un uomo, la donna debba anche vestirsi bene, essere carina, sorridente e magari un po' ammiccante e magari anche di più, è bella presenza, esattamente, è una cosa che ci accomuna tutte e ci accomuna tutte al di là, lei dice, che si sia la più preparata, colta, studiosa, intellettuale, matematica, una nota di colore anche qua era che sua mamma, che di cognome faceva Martinez y Franco, quindi era spagnola in realtà, è stata una delle prime allieve di Marie Curie. E ha lasciato poi la professione perché ha avuto i figli e così era la società. E quindi questo elemento per lei è molto importante perché dice è proprio quella dimensione in cui alla donna viene chiesto di essere donna e di riportare, riprodurre quell'effetto naturale che le viene venduto come naturale, ma che poi alla fine non è assolutamente naturale, è tutto culturale, cioè il fatto che lei lo dice molto bene, c'è una citazione in cui dice l'uomo è A e quindi ci si aspetta dall'uomo che sia fatto così, e cita, non so, il coraggio, la virilità, il genio creativo, eccetera, e poi i suoi difetti, quelli ammessi, non so, la violenza, la libido, queste cose qui, invece la donna cosa rimane? L'intuizione. No, sentire questa cosa per cui la donna non può ragionare, ma può sentire, non si capisce bene come. E quindi in questo senso sul lavoro lei dice viene chiesto questo. C'è un capitoletto, un altro capitoletto che piace molto a Carlotta, io lo so. che capitoletti preferiti. Esatto, sì, che si intitola Lavoro come prostituzione o prostituzione come lavoro, in cui lei pone esattamente questo tema. Sì, infatti, poi ti rilascio la parola, volevo agganciarmi a questo perché appunto avevo aperto sul mio capitoletto secondo preferito oltre ai ratti. In cui appunto anche su questo lei pone delle riflessioni, secondo me al di là se condivisibili o meno, su questo si può aprire il dibattito, ma interessanti, in cui appunto dice, all'inizio di questo capitoletto che mi piace molto, inizia dicendo il lavoro, si dirà, è già di per sé prostituzione, anche l'uomo lì vende il suo corpo. Sarà pur vero, ma lo vende sotto forma di attività e non di funzione. Questo apparentemente sembra un incipit che vuole dirci che il sex work, il lavoro sessuale, è qualcosa di diverso dal lavoro. E in effetti i motivi per cui però lei lo dice non sono quelli essenzialistici di perché vendere il proprio corpo è sbagliato, ma perché c'è un continuum tra lavoro sessuale e lavoro che colpisce soltanto le donne, no? Non colpisce gli uomini. Cioè, per le donne il rischio, tra tante virgolette, della prostituzione è sempre dietro l'angolo, no? E dice, infatti, adesso ritrovo la citazione, a un certo punto dice «Puttana è il primo insulto che viene alla bocca a un uomo che litiga con una donna». E questa è una grandissima verità, non è cambiata pure ai semafori. Così i colpi sono meglio giustificati. Le maggiormente chiamate in causa sono ovviamente coloro che già conoscono attraverso il lavoro salariato il lavoro come prostituzione. Obbligate a vendere a un capo esigente lo spettacolo del loro sorriso, della loro pettinatura, il fruscio delle loro gonne, o a tutta la clientela di un negozio, le loro unghie lucenti e il loro profumo discreto. Sono pochi i lavori femminili in cui una donna non deve vendere la sua immagine, anche se resiste alla spinta a vendersi in carne e ossa. Quindi il confine tra lavoro salariato, diciamo così, e lavoro di prostituzione è molto labile. Questa è una cosa che a me ha parlato molto, perché è una cosa che al di là di con non una di meno è stata una delle prime cose che avevamo messo in luce oramai 120.000 anni fa nello sciopero sociale 2015, con il sommovimento nazionale, di portare alla luce. Abbiamo fatto un prontuario, un tariffario, cioè ogni sorriso, ogni appunto compiacenza ha un prezzo e ce lo dovete pagare, e quello metteva proprio in luce come fosse in fondo la stessa cosa di una prostituzione. E questo capitoletto si conclude dicendo: in questa professione non c'è assenteismo. Perché non c'è un momento della nostra vita in quanto donne in cui noi smettiamo di ricevere la potenzialità dell'insulto puttana e la ricerca del compiacimento. E dice, ha ragione Kate Millet, le puttane, i nostri fantasmi, sono anche le nostre prigioniere politiche, no? Che appunto lei ovviamente ha una posizione, direi un po' abolizionista della prostituzione, ma... non lo dice, cioè direi che si capisce un po' da quello che scrive, ma non lo esplicita, perché è secondo me interessante come appunto metta in luce non tanto la differenza tra il lavoro sessuale e altri tipi di lavoro, ma la continuità per le donne tra il lavoro sessuale e tutti gli altri tipi di lavoro, no? Che smonta un po' la distanza tra come dire, noi e le possibili puttane. Con questo non voglio dire che poi ovviamente sia uguale, cioè il lavoro sessuale ha tuttora uno stigma che altri lavori chiaramente non hanno, però questa capacità di dire ognuna di noi, se ci pensa un attimo, no, potenzialmente sa che cos'è il lavoro sessuale, perché in fondo lo fa, che è una prospettiva che appunto secondo me è comunque interessante. Sì, adesso è che ci sarebbero così tante cose che Valentina... L'obiettivo di presentare è che appunto poi chi è qui sia... ma in realtà forse non ho colto io, e mi scuso, abbiamo perso qualcosa di quello che dice Françoise Dubon in quello che agiamo e portiamo avanti oggi? E poi volevo fare... Vuoi... Questo è difficile... è difficile, allora, mi verrebbe una domanda e una risposta, ecco, tante domande, prima, era un lapsus interessante perché sono più le domande che le risposte, ma mi verrebbe una risposta di contesto. Abbiamo sicuramente perso, al di là, come dire, di questo singolo libro, mi verrebbe da dire anche una capacità radicale, non nel senso, in questo caso non nel senso delle pratiche, che chi se ne frega, le bombe, ma nel senso del prenderci la libertà di fare delle analisi che provano ad andare alla radice. Appunto, Françoise Dubon decide a un certo punto di dedicare un po' di queste pagine alla preistoria e le teorie antropologiche, no? Adesso, senza addentrarci in questa vicenda, e anche lasciando stare, poi si sono anche confermate alcune delle sue intuizioni, ma lasciando stare se siano vere o meno, che non è secondo me il punto più interessante è la capacità di dire ok, io però scavo lì dentro fino a prendermi la libertà di dire delle cose. E l'altra questione è che forse abbiamo un po' perso, però questo non lo so, cioè mentre sulla radicalità secondo me in parte sì, anche perché abbiamo più parole, cioè nel senso che abbiamo una storia anche noi dietro di movimenti femministi, di battaglie femministe, di battaglie anche ecologiste, che appunto ci danno delle parole, che da un lato è un grande privilegio, dall'altro può essere una grande gabbia, no? Lei in tante cose, lei è anche molto critica sulla storia del femminismo prima di lei, cioè prima del suo periodo storico, sì, al di là di lei adesso sembrava. L'altra cosa che forse abbiamo un po' perso, magari non noi in questa stanza, ma in generale il mondo fuori, è la capacità di mettere in discussione l'idea di futuro. Nel senso che ci sono dei passaggi in cui Françoise Dubon, adesso non li ritrovo più, ma li avevo segnati, però parla dell'alleanza delle donne con il bambino, come un dato non di nuovo naturalistico, di le donne mettono al mondo i bambini e quindi ci sono più vicine, no, almeno io non l'ho ritrovato, ma nell'ottica di lavorare su un'immagine di futuro che non è la continuazione del presente migliorato, ma è proprio una differenza radicale, no? Allora torna un po' questa idea della radicalità e questa cosa di mettere in discussione il progresso, di mettere in discussione la linearità del tempo storico che ci porta appunto alle sorti magnifiche e progressive dell'umanità. Secondo me, benché magari noi qui lo sappiamo e lo facciamo, ecco, mi sembra che nel mondo questo si sia un po' perso. Sì, verissimo. E io aggiungerei in realtà, e lo dice lei, anche la capacità di rileggere il passato. Perché giustamente Carlotta sottotraccia citava appunto il fatto che lei ha fatto degli studi antropologici. E questa cosa è importante, perché in realtà lei ha fatto questi studi per costruirci la sua teoria ecofemminista e ha studiato in particolare le società delle Amazzoni. Ma perché? Perché lei voleva dimostrare che a noi viene la storia, ci racconta che a un certo punto così lo sviluppo umano è andato verso il patriarcato, il capitalismo, e tutto questo è stato naturale, non ha incontrato, no? È stato progressivo, ma non ha incontrato alcun tipo di intralcio. E lei dice: non è assolutamente vero. Cioè, quello che c'è alla base delle leggende delle Amazzoni, che magari sono leggende, ma è la difesa, armi alla mano, lei dice, delle ricchezze agricole, di quel sapere agricolo che era delle donne originariamente, no? Perché lei un po' lo spartiacque lo colloca nel momento in cui l'uomo ha capito di poter colonizzare la terra, quindi di poter possedere la fecondità del suolo attraverso la tecnica agricola e il corpo delle donne attraverso l'atto procreativo. E questo non è banale, perché prima si credeva che la donna fosse fecondata dalla divinità. No, quindi non si era fatto un collegamento tra l'atto sessuale e il concepimento. Quindi anche l'uomo passa un bel po' di tempo. Esatto. Uno dice: ma boh, cioè, poi è successo tante, cioè, insomma, non l'aveva mai fatto. Osservando cosa è successo, che con la pastorizia, osservando gli animali, è stato fatto, e l'uomo ha detto: ah cavolo, ma anch'io allora sono faccio il mio, no? Esattamente, e questa cosa qui, no, è partito da: ah cavolo, ma allora anch'io ho un piccolo ruolo, e a dire: ho tutto io, e ho in mano tutto, la terra, il corpo delle donne, sono due elementi che possono essere fecondati all'infinito, che possono produrre ricchezza all'infinito, e questa cosa ha cambiato proprio il modo di pensare, cioè ha costruito un modo di pensare basato sull'illimitismo, sulla sete d'assoluto, no? Quindi posso avere di più, di più, di più. E questa cosa ci è presentata come normale, no? Questo, se uno va a leggere come l'Homo sapiens sapiens, è tutto assolutamente lineare. Invece lei ci dice: non è così. E questa cosa qui noi la dovremmo recuperare, perché è come dire, anche questa è una cosa invece che piace molto a me dire, è come dire che la storia dell'uomo è fatta di guerre. Vero, è fatta anche di guerre, ma se andiamo a vedere, a contare gli anni sulle dita, in realtà la storia dell'essere umano è una storia di pace intervallata da guerre, e quindi tutto può essere letto, no, in modi diversi, non perché dobbiamo arrivare a dire che se l'uomo è buono o cattivo, gli piace fare la guerra, non gli piace la guerra, gli piace la pace, ma perché noi siamo tante cose, possiamo scegliere cosa fare, e da qui appunto arriviamo al concetto che per Françoise Dobon è importante: la scelta. Lei dice: noi dobbiamo restituire la scelta procreativa alle donne, perché è l'unico modo di fermare questo illimitismo che ci siamo portati dietro, che ci è stato venduto come naturale. Un altro aspetto che lei mette in luce ed è, come dire, indicativo, lei ci dice: i nostri musei di storia naturale, eccetera, sono pieni di statuette, falli, cose per chiedere, no, la fertilità. E questo perché? Perché il messaggio culturale, storico-culturale, che si vuole mandare è che sia un bene procreare il più possibile. Cioè, scopo massimo dell'uomo, della famiglia, della coppia è produrre più figli possibili. Ma perché? Lei dice: perché dobbiamo produrre lavoratori, dobbiamo produrre guerrieri, dobbiamo produrre, no, ingranaggi della macchina. Però attenzione, perché lei dice, ed è andata a studiare appunto tutte queste cose, ci sono, c'è tutta una tradizione sottoterra, sottotraccia, di tecniche di contraccezione, tecniche anche abortive, a volte anche pericolose ovviamente, tecniche per fare il malocchio, per non avere un figlio per tutto l'anno, per allontanare l'uomo dal letto, no, sono tutte, e ci sono in giro per il mondo, perché lei fa una carrellata, no, di questo genere di sapere, e questo è un sapere tutto femminile che è stato assolutamente estromesso dalla storia, perché manda un messaggio diverso, che non è il messaggio, e non è il messaggio di Françoise Dobon, non bisogna avere figli, cioè lei non è né neomalthusiana né le piaceva la deep ecology, lei non ha mai detto che dobbiamo smettere di fare figli, lei pensava che dovessimo farne un po' meno, perché per lei uno dei grandi problemi ai tempi era la demografia esplosiva e impazzita, che obiettivamente era un problema, no, tuttora è un problema, e tuttora peraltro molto più polarizzata, perché in Occidente abbiamo il problema tra virgolette, no? Ci viene posto questo problema e ci vengono proposte leggi per spingere le donne ad avere più figli, e intanto nel terzo mondo invece la demografia continua a crescere. E quindi questo è un altro aspetto che secondo me abbiamo un po' perso e che dovremmo recuperare. L'ultimissima domanda sul libro, poi darei la parola a Martina. Perché non è separatista? Nel senso che lo dico a persone magari non hanno letto il libro, uno legge il titolo Il femminismo, la morte, quindi perché però lei, cioè anche Sara giustamente prima ha detto le donne per lei sono la salvezza, no, per il pianeta, però lei non è separatista. Volevo in realtà rispondere con una citazione, ma vabbè, ne prendo una più breve che so dov'è. Dunque, lei dice, partiamo da qua, obiettivo della nostra lunga marcia, se seguiremo uno di questi due vettori, il problema dei rapporti sessuali che si situa per noi tra la prigione del matrimonio o la libertà vigilata del nubilato, o quello dello sfruttamento economico specifico della donna attraverso il lavoro domestico gratuito, finiremo inevitabilmente per incrociare l'uno con l'altro. La libertà sessuale, non più condizionata ma totale, eliminerebbe ogni obbligo sociale di sposarsi, sia per l'uomo che per la donna. Allo stesso tempo scomparirebbero l'eterosessualità come norma imposta e struttura di base della società, il sessismo, il lavoro gratuito della casalinga. Sarebbe la morte del patriarcato fallocratico. E sarebbe allo stesso tempo il trionfo del femminile in quanto pulsione secondaria repressa senza sosta dal divenire storico maschile. Ora, cosa vuole dire con questo? Vuole dire che lei legge, cioè lei parla di femminile come paradigma secondario o alternativo, potremmo dire, di stare al mondo, ma non si tratta di un paradigma che interessa solo il genere femminile, ma interessa tutte quelle minoranze, chiamiamole minoranze, ma in realtà io credo che poi nei fatti non siano minoranze, cioè penso che siamo la maggioranza se poi ci mettiamo tutti insieme, che non si riconoscono dentro questo sistema patriarcale che lei chiamava fallocratico. Ma lei dice chiaramente il sistema maschile che è responsabile della crisi ambientale e dell'oppressione delle donne e delle minoranze non è solo un sistema in cui di cui gli uomini traggono vantaggio. Lei dice chiaramente anche le donne che in questo sistema hanno trovato il loro spazio e ne traggono vantaggio sono inserite, quindi in qualche modo possono anche essere colpevoli di patriarcato, mettiamola così. Quindi il femminile lei lo vede non in termini potremmo dire essenzialisti, quindi lei non oppone il maschile e il femminile da un punto di vista di genere, di essenza, non dice mai, anzi dice chiaramente io non voglio un mondo governato dalle donne. Nelle società che io ho studiato, le prime società, in quelle società la donna non era il capo, la donna era al centro. E quindi l'idea è quella, lei usa altri termini, però diciamo la struttura è quella dell'ecologia sociale di Bookchin, se vogliamo, no? Quindi il problema è la struttura egemonica, quel momento in cui lo sviluppo culturale ha deviato e ha portato a forme gerarchiche, egemoniche e di oppressione di tutto quello che non veniva considerato eteronormato, appunto, però in questo senso non è separatista, perché avrebbe potuto anche usare altri termini forse, però ecco, leggendo tutto quello che viene prima si capisce perché lei utilizza il femminile, no? E infatti dice il pianeta volto al femminile, chiude il libro dicendo così: l'essere umano sarebbe finalmente trattato innanzitutto da persona e non come maschio o femmina prima di ogni altra cosa, e il pianeta volto al femminile rifiorirebbe per tutti. Però, per non far stare i maschi presenti troppo comodi sulle sedie, vorrei dire che questo non separatismo non è in nessun modo pacificato. Cioè, il passaggio per cui anche i maschi abbandonino il maschile in qualche modo, perché questa è la sua, mi sembra, la sua prospettiva, non è un passaggio del tutto sereno. Ve la leggo. La liberazione della donna sfocerà in quella degli uomini, se non di oggi, almeno di domani. Fin qui tutto bene. Porterà alla restituzione dello spazio alla specie, all'abolizione dei meccanismi repressivi che fanno dell'inconscio maschile un ricettacolo di sangue e di paura, alla liberazione di eterosessuali, bisessuali e omosessuali, e alla fine queste etichette scompariranno. Ma questo è per il domani. Nell'immediato non sfuggiremo alla guerra tra i sessi. Dobbiamo prepararci. I movimenti di liberazione delle donne dovranno scegliere attentamente le poche minoranze maschili che possono formare delle alleanze con loro, come il FAR, appunto, che citava, che lei ha fondato comunque, l'IR, e altri più marginali, contro tutti gli altri uomini. Chi sono gli altri uomini? I complici della fallocrazia che negano, i rivoluzionari che non ne contestano le strutture e soprattutto i liberali più perniciosi ancora dei maiali sessisti della specie. Dobbiamo molestarli e distruggerli come potenza fino a silenziare l'ultima delle loro voci. Dobbiamo spezzare la loro leadership e distruggerla. Non ci fermeremo finché non avremo distrutto il nucleo familiare, la norma eterosessuale come base della società e la discriminazione di genere come parte dello sviluppo del mondo. Quindi sono molto d'accordo con quello che diceva Sara rispetto al fatto, sobrietà, che appunto il femminile è una connotazione di un modo di stare al mondo e non è una natura. Mi sembra che però Françoise Dobon, anche per la sua militanza nei gruppi misti, I feel you, sia molto lucida nel mettere in luce che questa non separatismo deve passare da, non come dire, un'adesione del maschile passiva, ma questo stesso gesto distruttivo del maschile, dei maschi dentro di loro, spero che si capisca. Cioè, l'idea è appunto quel passaggio in cui a un certo punto la guerra tra i sessi è necessaria. È da superare, perché l'obiettivo, tra l'altro, questo è un altro elemento forse interessante che non è emerso, no? Cioè, proprio a partire da quello che diceva Sara rispetto al femminile, la prospettiva di Françoise Dobon, e lo dice in molti passaggi, non è la parità o l'uguaglianza, no? Ma è l'eliminazione del genere, se volete, come prospettiva. Però questa eliminazione del genere passa appunto da un movimento che lei poi definisce rivoluzionario in alcuni passaggi successivi, che è la distruzione di un potere che è radicato, come già diceva Sara, nell'agricoltura, nella presa di possesso sulla terra e sui corpi femminili, e che nel corso di tutti questi secoli è stato incarnato dagli uomini con un riflesso sul loro inconscio, no? Perché questo è un altro elemento che forse non abbiamo tanto detto. In Françoise Dobon c'è anche molta attenzione alla psicanalisi, che è un tratto un po' del periodo francese dell'epoca, ma che è interessante perché ci dice che i movimenti politici non sono mai solo movimenti esteriori, ma anche costantemente movimenti interiori. Però è chiaro, cioè, quello che a me sembra interessante adesso, al di là di leggere le citazioni sulla distruzione dei maschi, è che in fondo per Françoise Dobon chiunque può diventare femmina, cioè chiunque può abbracciare il femminile, non c'è bisogno di essere nata femmina, in questo è davvero, secondo me, non essenzialista in nessun modo. Ok, grazie. E volevo un po' passare la parola a Martina, perché Martina è qui con noi. Il 3 marzo c'è lo sciopero globale per sensibilizzare sul cambiamento climatico, e quindi lo sciopero globale del clima, il non so che numero siamo arrivate ormai, però è un movimento grosso quello di Fridays for Future, che è iniziato da tanti anni e che ancora ha una grossa validità. Un po' perché ci troviamo in questa situazione catastrofica e quindi ovviamente la validità è dettata dal contesto, ma anche quello che porta avanti al movimento è assolutamente valido. Volevo chiedere innanzitutto a Martina un po' se ha voglia di raccontarci il percorso verso questo prossimo sciopero e magari anche una nota di prospettiva, però partendo un po' da quanto di Françoise Dumont si può tenere per Fridays for Future, quanto essere militanti in Fridays for Future ti rispecchia un po' quello che hai letto, e non vado avanti perché preferisco. Allora, Madonna, parlare adesso dopo che hanno parlato loro mi viene un po' difficile. Quindi sarò molto terra terra. Del libro ho apprezzato sicuramente il fatto che si crei questa connessione, il fatto che ci sia sia una progettualità che un bisogno di teoria. E purtroppo questa cosa nei movimenti per il clima manca. Però tornando un attimo al libro, volevo assolutamente sottolineare l'importanza, se lo leggete, della prefazione, perché la parte sulla sovrappopolazione è un argomento che in Fridays for Future è stato dibattuto tantissime volte. È un punto molto delicato, perché il problema della povertà in quello che viene chiamato erroneamente sud del mondo, che noi chiamiamo MAPA, Most Affected People and Areas, non è tanto il fatto che c'è tanta procreazione, ma il fatto che le risorse ce le abbiamo tutte noi. E questa cosa qui fa rivalutare tutto il problema della sovrappopolazione e della demografia. Perché il discorso sulla demografia può essere un'arma a doppio taglio per le persone dei paesi più colpiti dalla crisi climatica e soprattutto per le donne che vengono oggettificate e a cui viene imposto, in virtù della transizione ecologica per fermare la crisi climatica, un'emancipazione che non hanno creato loro dal basso, un'emancipazione eurocentrica, occidentale, che non sono riuscita a costruire, che non hanno progettato, che non hanno abbracciato, e allo stesso tempo si rivolta anche sulla donna del paese occidentale che viene ancora una volta privata della sua possibilità e del suo diritto assoluto ad autodeterminare il proprio utero. Perché io ho sentito dire da compagni nel mio movimento che la situazione demografica in Italia è un problema, perché chi le paga le pensioni? E questi sono i compagni. Tanto non ci saranno le persone. Infatti, dov'è il problema? Esatto, cioè. E queste cose, e per questo è molto importante riuscire ad allontanarci dall'argomento della sovrappopolazione come problema chiave della crisi climatica, perché il problema chiave della crisi climatica sono le discriminazioni e la tendenza all'accumulo, e su questo Françoise Dumont ci ha preso in pieno. Cos'altro? Sempre per quanto riguarda l'imposizione dall'alto di progettualità per fermare la crisi climatica, è molto importante considerare quanto a livello scientifico ci sia molto spesso tra le prime Forse anche tra le prime 5 soluzioni per fermare la crisi climatica, l'emancipazione e l'educazione delle donne, soprattutto nei paesi più colpiti dalla crisi climatica. Però qua a me viene da dire, non può essere finalizzata alla crisi climatica, può avere dei benefici nel fermare la crisi climatica, ma deve essere un obiettivo in sé. Come allo stesso tempo quando si parla di migrazioni climatiche, io ormai inizio a rifiutarmi di dire guardate che con la crisi climatica ci saranno più migrazioni, perché le persone dovrebbero essere libere di migrare a prescindere dalle cause. Questi dettagli sono molto importanti e purtroppo gli uomini dei movimenti per il clima, quindi non sto parlando solo di Fridays for Future, parlo di uomini con cui mi sono confrontata, dei movimenti per il clima, questa cosa non la colgono. Loro sono concentrati verso l'obiettivo finale. Io sto parlando di uomini in generale. Poi sono stata graziata da un ottimo gruppo locale qua a Milano, però a livello nazionale facciamo molta fatica. Infatti stiamo creando una consultoria, una collettiva transfemminista al nostro interno. Stiamo facendo tutto il possibile. Però se mi ritrovo davanti persone che dicono va bene, però adesso la priorità è fermare questa crisi perché è urgente, a me viene voglia di non lottare più con queste persone, perché questo è il discorso che i compagni hanno fatto dal giorno dei giorni. Viene prima la lotta di classe, viene prima la lotta alla crisi climatica. E il femminismo e la lotta contro le discriminazioni passano sempre in secondo piano. Non va bene così. E quello che mostra l'idea di ecofemminismo progettuale, secondo me, nello scritto di François Dobon, è l'idea che non solo si possono avere entrambe le cose, ovvero la lotta per i diritti di genere contro tutte le discriminazioni, ma anche la lotta per la lotta ecologista, ma che se le portiamo avanti non insieme, non di pari passo, ma proprio in modo unito, in modo intersezionale, il risultato arriverà più velocemente e sarà più duraturo e sarà migliore di tutto. Ora, se mi viene detto, o da un uomo, ma anche da una donna che magari non ha ancora avuto la fortuna di entrare in contatto con le realtà transfemministe, che non c'è tempo e dobbiamo fare prima tutto quello che ci vuole per fare la transizione, a prescindere da tutto il resto, o non è chiara sia la teoria che il modo in cui diventa pratica, in questo caso lì suggerisco il libro, oppure semplicemente non si vuole rinunciare al proprio privilegio, perché questo è il punto. Il punto è che si pensa che in un mondo dove tutte siamo emancipate, loro saranno un po' meno emancipati. E forse un po' è così. Però è un mondo in cui staremo meglio tutte, e sinceramente se non hanno voglia di immaginarlo, a me non me ne frega niente, a noi ragazze del movimento non ce ne frega niente. Quindi in questo caso, a livello nostro interno, ma anche a livello di alleanze che si stanno creando vista la vicinanza delle due giornate in tutta Italia, c'è bisogno di un progetto ecofemminista nelle città, nei collettivi. Io non so se è il caso di crearli all'interno delle realtà oppure di creare un'intersezione che sia esterna ma che vada a confluire nei momenti chiave di entrambe le mobilitazioni, di entrambe le tematiche da portare avanti. Però c'è bisogno di ecofemminismo. C'è bisogno nel modo in cui leggiamo la realtà, le tematiche che portiamo avanti. Infatti brevemente a Milano ci concentreremo soprattutto sul tema dei trasporti, che abbiamo già aperto con l'azione che abbiamo fatto l'altro giorno. Parleremo anche di comunità energetiche. Qua torna tanto il tema dell'energia centralizzata o della polienergia. No, in tutta la discussione che adesso è molto forte in Italia, nucleare o rinnovabili, quello che si lascia sempre da parte quando si va a parlare di megawatt e basta è che la politica energetica è una politica, e le energie rinnovabili sono energie che possono essere decentrate, possono essere in mano alla cittadinanza, possono creare un aspetto di comunità, di partecipazione molto, molto più vicino a quello che dice Françoise Dobon, o anche un Bookchin, oppure piuttosto che quello che ci vogliono dire le persone non solo affezionate al liberismo, ma anche quelle affezionate all'idea di Stato centrale top down, ecco. Quindi nel momento in cui dicono, ah, siete degli ambientalisti, tutti fiorellosi, no, sono una persona che fa politica, sono una persona che fa politica e ci mettiamo anche le bombe se dobbiamo. E in questo è un altro tema, appunto, nell'idea della comunità energetica ritorna molto l'approccio ecofemminista. E poi niente, parleremo anche di Olimpiadi, che è un altro modo di cannibalizzare totalmente un evento culturale con aspetti che ovviamente puntano solo al profitto, perché nonostante le strutture ci siano già, di nuovo c'è l'aspetto dell'accumulo, le vicinanze ci sono, insomma, e basta. Sciopero globale del clima, sciopero globale dell'8 marzo. Sono due date molto ravvicinate che hanno permesso anche delle collaborazioni magari anche più consistenti che nel passato, anche se i movimenti si sono sempre attraversati a vicenda. Quindi continuo a fare la parte della presentatrice, non lo faccio io, verso l'8 marzo. Sì, domande difficili. Allora, siamo intanto, così, un piccolo momento di gloria del personale del movimento, siamo al 7-8 marzo e non siamo apparentemente, quantomeno nella crisi del settimo anno però, forse un pochino. l'8 marzo, come dire, qui mi sento un po', però magari le persone che ci ascoltano nella radio, perché qui secondo me lo sappiamo tutte che ci vediamo... che ci vediamo in piazza Duca d'Aosta alle 18:30 a fare il corteo e ad attraversare nuovamente la città. Insieme a questo 8 marzo però mi permetto di aggiungere un tassello di cose che ha accennato Sara ma non abbiamo magari approfondito. Questo 8 marzo si caratterizza anche per essere veramente molto vicino a un anno di guerra. E quindi uno dei temi che già avevamo portato in piazza l'anno scorso, ma che riportiamo in piazza, è il contrasto alla guerra, come appunto, come accennava brevemente Sara prima, anche come veramente massima espressione di un pensiero patriarcale e di un pensiero maschile maschilista, quindi rinnovando, come dire, la richiesta di pace, e su questo so poi di trovare una vicinanza con Fridays for Future, perché la guerra ha degli effetti peculiari su alcuni temi, nel senso che la guerra fa male a tutte e tutti e tutto indistintamente. Certo è che per quanto riguarda il pianeta moltissimo, ma per quanto riguarda le donne e le soggettività trans, per esempio, e le persone gay, lesbiche, bisessuali, pansessuali e chiunque si discosti dalla norma di genere, la guerra ha una pregnanza ancora maggiore, perché ogni guerra significa in realtà una riconferma di quelle strutture binarie patriarcali in cui siamo incasellate, che come dire, allontanano, no, quel domani di cui parlava Françoise Dubon. Per cui quest'anno c'è anche questo aspetto, e aggiungerei, proprio pensando a Françoise Dubon, che ovviamente appunto il tema del lavoro rimane un tema centrale, per mettere in luce la contiguità, che secondo me Françoise Dubon fa benissimo, tra il lavoro domestico non pagato, il lavoro di cura, appunto il lavoro di compiacimento, sembra io che mi compiaccio, mentre compiacciamo degli altri, loro si compiacciono e noi li dobbiamo compiacere. Grazie, si vede che sei prof, del compiacere gli altri, che appunto è uno degli elementi dello sciopero da sempre, no? Dello sciopero transfemminista, cioè di scioperare anche da quegli aspetti del nostro lavoro, che non è solo assentarsi dal lavoro, ma anche scioperare, per esempio, appunto dal lavoro domestico, andare a lavorare, ma scioperare da tutto quel surplus di lavoro, di cura e del compiacere che ci richiedono. E insomma, questo secondo me è un elemento che ritorna con forza. Non ho risposto alla tua domanda, ma ci sono mille appuntamenti che trovate su tutti i social, di non una di meno, da qui all'8 marzo, in cui troverete sempre lo splendido banchetto. Io vi invito vivamente a comprare il Panuelos, perché poi vi pentite. L'8 marzo arrivate in piazza, sono finiti, tutti ce l'hanno e voi vi sentite escluse. Posso? Sì, no, scusate. Io invece vorrei dire una cosa, visto che insomma ho saputo da poco che è stato confermato il 41 bis per Alfredo Cospito. Ecco, ci tenevo a dire che Françoise Dobon è stata anche un'attivista contro il carcere, tanto che lei aveva questo modo di fare militanza anche un po' performativo. Per cui a un certo punto della sua vita lei aveva già avuto un marito in una situazione molto giovane, in una situazione poco piacevole, ma insomma diciamo l'ha lasciato, l'ha sposato solo perché riconoscesse sua figlia, poi è partita per Parigi e chi si è visto si è visto. Però appunto a una certa età, dopo aver passato diversi anni da sola, anzi dicendo lei aveva relazioni solo con uomini bisessuali perché diceva che erano gli unici che poteva insomma sopportare, decise di sposare un condannato all'ergastolo, Pierre Sanna, per un omicidio che a suo avviso di lei non aveva commesso, come forma di protesta contro il carcere e contro questo fine pena mai. E come ha fatto a comunicarlo al mondo, ha scritto su Le Monde e ha fatto pubblicare l'annuncio del matrimonio, appunto la Mademoiselle Françoise Dobon sposa Pierre Sanna, e quindi insomma niente, ci tenevo a ricordarlo perché è un momento di attualità insomma, un po' triste direi. Tra l'altro ringrazio Sara, perché forse è telepatia, ma mi è venuto in mente di dire, dobbiamo dire, non sapevo dell'ultima, madonna devo stare attenta, non sapevo l'ultima notizia, però volevo trovare l'occasione comunque per ricordare in che tempi stiamo vivendo, anche perché comunque ci muoviamo in una prospettiva anticarceraria e quindi assolutamente contro il carcere duro, e quindi ti ringrazio molto. L'ultima cosa, e poi se qualcun dell'Upresentu vuole fare domande, prego. Racchiude sia l'8 marzo che il 3 marzo, in un certo senso, perché lo sciopero è uno strumento valido? Io potrei parlare di mille cose. Perché in tre battute è molto scherzo. Difficile. mi è venuta l'ansia. Fondamentalmente perché è l'unico modo in cui possiamo davvero continuare a lottare senza perderci d'animo, senza ritrovarci a casa ad avere l'ansia pensando al mondo che va in fiamme, che è quello che succede a me almeno due pomeriggi a settimana, è riuscire a lottare insieme. Quello che sceglie di fare Fridays for Future, che vedo anche fare a non una di meno, è scegliere pratiche di lotta collettive, di tutela, di cura collettiva, in cui le piazze possano essere partecipate, in cui qualunque tipo di azione avviene con la copertura delle compagne, dei compagni, dei compagne. Questo è molto importante, questo è perché è il motivo per cui lo sciopero è ancora un mezzo di protesta, un mezzo di azione fondamentale, per il fatto che se gestito bene può essere davvero un momento di cura, un momento intersezionale, e soprattutto fa vedere che per risolvere certe cose non si può prescindere dalla collettività e dalla cura e dalla tutela collettiva. Detto collettivo un sacco di volte. E vabbè, grazie a tutte, assolutamente. Non so se ci sono domande, suggestioni. È il microfono della radio, per cui. Sì, grazie. Intanto complimenti a tutte. E, prima si parlava dell'autrice che cerca di immaginarsi un diverso futuro. Tante volte questo discorso di non riuscire a immaginare un altro futuro ritorna un po' anche nell'abbandono che si vede nelle masse, non cercare un'alternativa a quella che è la nostra realtà. Una prospettiva effettivamente ecofemminista può essere questa narrativa, questa radicale alternativa per cercare di sbloccare come un grimaldello questa situazione di pietrificazione della storia? No, non io, tanto mi conosco. Sì. Abbiamo una risposta secca, sì. Va bene, allora io ne darò una media e poi passo a Carlotta. Allora, io penso di sì anch'io, ma per un motivo molto semplice, cioè, oddio, semplice non è, ma se ci pensiamo, gli unici movimenti che negli ultimi anni sono riusciti in qualche modo a rompere il muro dell'indifferenza, che vuol dire non solo entrare dentro i collettivi, che è già una cosa enorme, perché ci sono, sappiamo benissimo, per chi conosce un po' la storia dei movimenti, che la questione del femminismo, molto prima che quella ecologista, ha distrutto storie di esperienze politiche anche importanti. Quindi non solo questi temi sono riusciti a entrare dentro i collettivi, a imporsi e a sensibilizzare i compagni, ma sono riusciti a parlare alla gente, per cui le piazze degli scioperi per il clima e le piazze di Non Una di Meno sono delle piazze che finalmente ci danno, almeno parlo per me, però non lo so, ci scaldano un pochino il cuore di fronte alla tragedia che abbiamo davanti. Quindi io penso che se fossimo in grado di mettere insieme queste due forze propulsive, quindi come si diceva, non farle andare parallelamente ma unirle, allora sì, credo che potrebbe essere la sintesi giusta. È chiaro che qui si pone il problema, per quanto mi riguarda, che è sempre appunto la grande domanda: come fare a creare dei momenti dialogici come questo a un livello tale per cui si possa andare a parlare di ecofemminismo con mia mamma, con mia zia e con non lo so, con sua sorella, no tua sorella no, però magari, però per dire, con persone che magari non hanno sensibilità con questi temi e che però si stanno mettendo in gioco, se non altro perché io mai mi è successo prima che negli ultimi anni di trovarmi a discutere di questioni ambientali o di genere, di adesso c'è questa cosa che da boomer, veramente da boomer, di dire ma quindi questa fluidità, no, però intanto te lo chiedono, no, non so come dire, passi avanti, no? Quindi appunto io credo che sì, sia la strada giusta, dobbiamo capire un po' come. Sì, sono d'accordo, aggiungo solo un piccolissimo elemento che non riguarda tantissimo Françoise Dobon, se non nella suggestione, no? Cioè che credo che uno sforzo per pensare il futuro, e qui mi collego perché mi ha colpito in questo testo che lei parli sempre del bambino con la B maiuscola, cioè intendendo il bambino come immagine del bambino e non i bambini reali che ci circondano. Quelli vivi, che è un gesto che fa anche Lee Edelman in un testo che purtroppo non è stato tradotto in italiano ma molto bello, che si intitola No Future, che ecco, io prenderei paradossalmente per pensare al futuro un po' del No Future, nell'ottica di pensare un futuro che sia in grado anche di dare risposte al presente, che è la capacità delle grandi utopie ottocentesche, per esempio, no? Cioè di immaginare un futuro lontanissimo e anche dirti come devi vivere qui e ora per stare meglio, no? Cioè quindi di non ipotecare la nostra vivibilità per un futuro a venire, ma di riconoscere le trame che rendono possibile il futuro a partire dalla nostra vita presente. E questo credo che aiuterebbe anche chi magari sente le retoriche sul futuro come molto distanti, chi dice ma sì, il pianeta finirà, non fa niente, io intanto voglio bere dalla cannuccia di plastica perché quelle di carta fanno schifo, che è una grande verità, però non fa niente, e la pasta, sì, anche quelle di metallo secondo me veramente sono, non so, vabbè, ho dei problemi io, comunque non funzionano benissimo, però quel metallino me le ho provate di bambina, bambù. Bambù bene. Bambù top. Comunque, al di là della questione cannuccio, no? Di chi dice vabbè, il futuro non mi riguarda, e invece riconoscere che, e questo secondo me invece Françoise Dubon lo fa molto bene anche quando parla, per esempio, no? Del legame tra rifiutare l'accumulazione e questo come ci permetterebbe di lavorare una o due ore al giorno, dice, che mi sembra il limite accettabile. È un po' troppo, magari due ore ogni giorno inizia a essere pesante. Media, dai. e quindi, no, di vedere come appunto non è una cosa di là da venire, ma è una cosa che impatta sulla nostra vita oggi. Sì, sì. Beh, sì, è indicativo rispetto a quello che diceva Carlotta, che in realtà il femminismo, la morte, sia una risposta, in effetti, a un altro libro di un anno prima, del 73, di René Dumont, che è stato il primo candidato ecologista di Francia, che ha scritto proprio L'utopia o la mort. E Françoise Dubon, in qualche modo, gli ha risposto dicendo sì, tutto bello, ma prima il patriarcato va distrutto. Cioè, questo è esattamente il discorso che fa lei e che appunto più o meno era anche quello che faceva, sì, Carlotta. Poi possiamo parlare. Esatto. Se non ci sono altre domande, con il patriarcato va distrutto. chiuderemmo la presentazione del libro. Invitiamo sempre a sostenere il finanziamento alla politica dal basso, alle mobilitazioni, banchetti, aperitivo, eccetera. E grazie a tutte di essere venute. E buona festa.